avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Eccoci alla seconda giornata del Salone del Libro di Torino. Stiamo trasmettendo dal Lingotto, padiglione 2, quello giallo, e siamo qui in solitaria malinconia. Come avevo già detto ieri, noi stiamo affrontando lo sdruccioloso ma anche affascinante tema della trilogia di Italo Calvino, perché l'abbiamo eletto tra i 15 libri che più o meno congruamente sono stati scelti a rappresentare l'Italia degli ultimi 150 anni come quello di nostra elezione, di nostra scelta. Negli antenati di Italo Calvino abbiamo trovato delle linee comuni, delle corrispondenze a esperienze personali che troviamo degne di essere rappresentate alla radio. Ieri parlammo del barone rampante e scoprimmo che centinaia di persone ci hanno chiamato raccontando della fantastica esperienza dell'ascesa attraverso un albero. Banalissima operazione a cui nessuno dà un particolare senso, oltre quello del gioco fanciullesco, ma in realtà capimmo primo tentativo di trascendere la propria esistenza, di essere destinati a guardare sempre con gli occhi per terra. Oggi affronteremo un altro tema. Oggi parleremo del Visconte dimezzato. Della trilogia è il più singolare, il più surreale, il più cyber, se vogliamo usare un termine moderno. È la storia di questo visconte settecentesco, Medardo di Terralba, che un giorno, combattendo i turchi in Boemia, giovane sconsiderato, animato da eroici furori ma allo stesso tempo inesperto delle arti guerresche, si pone davanti alla bocca di fuoco di due turchi che gli sparano una cannonata e lo tagliano a metà. Da quel giorno egli diventano due persone, uno buono e uno cattivo. Rimane diviso semplicemente a metà, tagliato preciso con un taglio dalla cannonata. Riescono i cerusici del tempo, con un miracolo di prosochirurgia, a salvare le due metà. Metà torna al suo feudo, è un cattivissimo e crudelissimo despota. Cattivo e crudele e maniaco della propria difformità, tanto da dividere a metà tutto ciò che di vivente vedeva. Tagliava a metà gli uccelli, le lucertole, le rane, gli insetti e anche gli esseri umani, amministrava la sua giustizia in maniera dispotica e crudele. Crudele e estremamente cattivo. L'altra metà, che viene preso e raccolto dagli eremiti, diventa stucchevolmente buono. Poi vedremo come andrà a finire questo romanzo, che è talmente noto che probabilmente non vale nemmeno la pena. Ma la domanda che vi facciamo questa mattina è quella che ci è venuta spontanea parlando con la persona che sta accanto a me, e tra un istante sentirete la voce e ne sarete contenti. È molto facile dire che i cattivi sono cattivi, che i cattivi vanno sterminati, che i cattivi sono una maledizione del cielo, ma il vero senso profondo del libro di Calvino e quello che vorremmo questa mattina con voi raccogliere è la preghiera che facciamo e che vorremmo fare assieme a voi: Dio ci salvi dai buoni. Tirato via il lenzuolo, il corpo del visconte apparve orrendamente mutilato. Gli mancava un braccio e una gamba. Non solo, ma tutto quel che c'era di torace e d'addome tra quel braccio e quella gamba era stato portato via, polverizzato da quella cannonata presa in pieno. Del capo restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza bocca, mezzo mento e mezza fronte. Dell'altra metà del capo c'era più solo una pappetta. A farla breve, se n'era salvato solo metà, la parte destra, che peraltro era perfettamente conservata, senza neanche una scalfittura, escluso quell'enorme squarcio che l'aveva separata dalla parte sinistra andando in bricioli. Ricordo ancora una volta che non a caso gli stralci dei libri di Calvino sono letti da Barbara Alberti. Barbara Alberti ed io questa sera, da questo stesso punto, alle ore 21, faremo uno speciale a due voci dedicato al Cavaliere Inesistente. Quindi questa sera pregherei una particolare attenzione da chi ci ascolta da casa per telefonare il Cavaliere Inesistente. Chi è il Cavaliere Inesistente? È l'uomo che tutte le donne cercano, che in realtà non è un uomo che esista. Dietro un'armatura non c'è nulla. Le donne amano, si strusciano, sognano, allucinano ciò che possa essere dietro quell'armatura. Ma il bello è proprio quello, che dietro l'armatura non c'è niente. Quindi quelle che vorranno parlare del loro cavaliere inesistente si preparino a partecipare questa sera alle 21. Quelli che questa mattina vogliono con noi alzare la propria preghiera e dire Dio ci salvi dai buoni, perché in fondo la parte buona del Visconti di Mezzato era la peggiore. Vi leggo un pezzettino soltanto, velocissimo, in cui vi fa capire quanto il buono possa essere nefasto. Il cattivo l'abbiamo capito, il cattivo era crudele, ammazzava, faceva vivere nel terrore con la sua sinistra e nera figura le persone del suo feudo. Ma il buono era terribile, il buono era considerato qualcosa di fastidiosamente terapeutico di tutti i mali del mondo. A un certo punto c'è un pezzo che dice Calvino esattamente per dar l'idea di questa iattura del buono. Dice: non c'era pecora che si spezzasse gamba in burrone, non bevitore traesse coltello in taverna, non sposa adultera che corresse nottetempo ad amante che non lo vedessero apparire lì come piovuto dal cielo, nero e secco, col dolce sorriso a soccorrere, dar buoni consigli e prevenire violenze e peccati. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Silvana De Mari, scrittrice di genere fantasy, saggista, però anche medico e psicoterapeuta. Medico importante perché il medico avrà una funzione fondamentale nel libro di Calvino. Ha pubblicato recentemente, Silvana De Mari, L'ultima profezia nel mondo degli uomini, edito dall'editore Fanucci, che è una saga che era iniziata con Salani, L'ultimo elfo, L'ultimo orco, Gli ultimi incantesimi. Insomma, una scrittrice di fantasy e un medico. Silvana, i buoni sono veramente deleteri rispetto ai cattivi. I cattivi li conosciamo, li temiamo, ci salvaguardiamo dai cattivi, ma dai buoni chi ci salva? Il problema è che è proprio questo, dai buoni chi ci salva, perché il cattivo almeno si presenta come tale, e mentre il buono no, e quindi noi abbiamo questo terribile problema che è il senso di colpa. Il buono e il cattivo, le due metà di Medardo, sono due figure assolutamente mostruose, sono due mezzi uomini assolutamente incapaci di accettare la propria umanità. Della nostra umanità fa parte anche la nostra ferocia, noi siamo la nostra storia, noi siamo la nostra grandezza, noi siamo la nostra miseria, noi siamo la nostra ferocia, noi siamo la nostra compassione, noi possiamo essere straordinariamente criminali e straordinariamente buoni, ma noi siamo noi ed è fondamentale la nostra interezza. Chi è Medardo Buono? Una persona che ha subito il fallimento. Il fallimento è una situazione assolutamente soggettiva, non esiste nessun fallimento oggettivo. Ma se io dovevo fare 10, ho fatto 9,5, nel mio delirio posso considerarmi un fallito. Allora ho varie situazioni per uscirne. Una è essere più cattivo del reame, come per esempio Adolf Hitler. L'altro è essere più buono del reame, come per esempio un'enorme parte del terzo mondismo pauperista contemporaneo. Chiunque non riconosca nella propria umanità la propria parte orca sta negando la propria umanità. Qual è il grave? Che non la perdona agli altri. Se io sono tanto buono, io non perdonerò a qualcuno di starsi, che mentre si sta strafogando di acqua e pane, mentre un bambino da qualche parte in Africa muore di fame, lo considererò un assassino. La metafora non è mia, ma di Arthur Kessler. Allora Silvana, cosa ci vuol far capire Calvino? Che in realtà l'esperienza del male che sta in noi è un'esperienza necessaria, perlomeno va conosciuto, perlomeno non va rinnegato, o perlomeno bisogna considerare che c'è questa parte in noi che è utile per noi anche per gli altri, è utile che ci sia, che la conosciamo. Intanto chiedo a chi sta a casa di chiamare all'800240024 quanto vi siete sentiti oppressi da qualcuno eccessivamente buono che vi inchiodava alla vostra responsabilità di essere umano fallibile, sottoposto alla sua natura comunque fatta di un'infinità di venature. Quali sono i buoni che hanno terrificato la vostra vita? Qual è la vostra esperienza infernale del contatto con la bontà? Ecco dunque la storia di Medardo, come Pamela l'ha presa quella sera. Non era vero che la palla di cannone avesse sbriciolato parte del suo corpo. Egli era stato spaccato in due metà. L'una fu ritrovata dai raccoglitori di feriti dell'esercito. L'altra restò sepolta sotto una piramide di resti cristiani e turchi e non fu vista. .800240024 dalla metafora del Visconte dimezzato, stiamo cercando di individuare quanto possa essere sottoposta a zone d'ombra anche l'eccessiva bontà. Bontà oggi viene definito con un termine che in sé già ha tutto l'aspetto umidiccio limaccioso dell'insulto, il buonismo, Silvana De Mari. Il buono e il buonista hanno delle differenze fondamentali. Ma certo, il buono è una persona felice e serena ed è impegnato a favore. Il buonista è una persona scontenta e infelice ed è impegnato contro, quindi prima o poi diventa un professionista dell'odio, e questo è il punto fondamentale. Se io so chi sono, non ho bisogno di schiacciare gli altri per sopravvivere e mi godo le mie giornate. Se io non so chi sono perché ho una crisi costante di identità, riesco a ricavare un'informazione su chi sono dall'essere più qualche cosa del reame. In questo caso un buon trucco può essere il più buono del reame, e questa è una situazione pericolosa perché si nega l'umanità. Noi abbiamo nei nostri costituenti fondamentali l'aggressività, la collera, la necessità di difenderci. Esisteva un uomo primitivo, l'uomo di Neanderthal, che pare fosse estremamente compassionevole, questa abbiamo avuto l'impressione, bravo anche nel pensiero astratto. Noi discendiamo dall'uomo di Cro-Magnon, i Neanderthal si sono estinti. Quindi al di sotto di un certo quantitativo di aggressività, al di sotto della capacità di difendere se stessi e i propri figli in maniera armata, noi smettiamo di essere vitali. In questo libro c'è anche la presenza costante della razionalità, della scienza, della tecnica. Non a caso il chirurgo che trascura e fa morire dei poveri feriti con una freccia nella battaglia perché è affascinato da questa grande sfida di salvare la vita all'uomo dimezzato. Ma già in sé c'è qualcosa di oscuro presagio rispetto a un accanimento terapeutico nei confronti del male. In sé lui prova a fare una sorta di lobotomia, dividere a metà la natura umana e vedere cosa succede. E c'è un primo proto-esperimento in Calvino di ingegneria genetica, di provare di rettificare la natura umana facendo delle forzature alla banale maniera di un uomo di evolversi e di fare esperienza della vita. Sì, esatto. Dico perché tu che sei chirurgo hai visto di tutto, hai fatto di tutto. Sì, anche questo è assolutamente una delle metafore presenti. L'altra, che è meno presente, può essere considerata, è l'ambivalenza destro-sinistra, che è anche l'ambivalenza razionale-emozionale, anche se qui è presentata semplicemente con l'ambivalenza buono e cattivo. Adesso io sono appena tornata dall'aver visto il memoriale di Yad Vashem, cioè il male assoluto. Yad Vashem è il memoriale creato a Gerusalemme per ricordare le vittime di questa spaventosa cosa per la quale noi non abbiamo il nome. Usiamo il termine Shoah ed è stato detto impropriamente che i nazisti hanno ucciso gli ebrei, l'Europa ha ucciso gli ebrei. Senza la collaborazione di tutti non sarebbe stato possibile, si è creato questo muro di conformismo spaventoso. E i bambini sono stati usati per esperimenti medici e dopo, quando non è stato più necessario, sono stati impiccati. L'assassinio del bambino è presente nel Visconte dimezzato. Evidentemente non si poteva assassinare un bambino lasciando al racconto la sua meravigliosa leggerezza, quindi è rappresentato da quello che da sempre rappresenta il bambino, che è l'uccellino. Il conte Iolfo, padre di Medardo, gli manda un uccellino e Medardo lo uccide, lo storpia, lo tortura a morte. Da sempre l'uccellino rappresenta il bimbo. Da noi si dice che quando una donna cerca di restare incinta e non riesce, se un uccellino entra in casa, questo porta la fortuna, questo sarà il segno della gravidanza che sta arrivando. Sì, è una nemmeno tanto velata metafora della necessità che comunque qualcuno provveda a fecondare quella donna. Certo, è bello perché senso. C'è un certo punto che la crudeltà di questa parte cattiva del Visconte Medardo colpisce proprio gli uccelli. Non a caso il padre poi viene in una voliera, l'avevano rinchiuso in una voliera perché avere contatto con gli abitanti dell'area è già un senso di desiderio di ascesi. E c'erano queste rondini che lui colpiva sempre con la balestra, ma le colpiva non per ucciderle ma solo per ferirle e per storpiarle. Prova si ricominciano a vedere nel cielo rondine con le zampine fasciate, legate con stecchi di sostegno, o con le ali incollate o incerottate. C'era uno stormo di rondini così bardate che volavano con prudenza, tutte assieme, come convalescenti di un ospedale uccellesco, e inverosimilmente si diceva che lo stesso Medardo ne fosse il dottore. Quindi, quando il costruttore di forche, che è uno dei sostenitori del Visconti di Mezzato, inventa il suo capolavoro, la forca per impiccare di profilo, in cui potesse essere sia il condannato che il condannatore, sulla stessa forca c'era colui che condannava e colui che veniva impiccato, perché le due nature avevano questa sorta di cortocircuito e non potevano convivere. È l'uomo che rinnega se stesso, è l'uomo che rinnega l'estrema complessità della sua natura. Noi adesso abbiamo questa roba del buono cattivo che si concentra nella legge o tutto nulla. O tutto nulla vuol dire che o sono immensamente buono, intelligente, bravo, generoso, riciclo la spazzatura, sono cortese, che faccio attraversare le vecchiette, o non valgo assolutamente nulla. Noi abbiamo una gradazione da 1 a 100, nessuno fa 100. Una volta che abbiamo preso 60, grasso che cola, è la sufficienza. Facciamo un esempio: adesso c'è la demonizzazione di grandissimi geni come Arthur Koestler o Albert Einstein, perché era scortese con la moglie e aveva menato l'amante. Pazienza, non avrà 100, avrà 81, ciò non toglie che nel suo campo fosse un genio. La legge o tutto nulla è la legge che ci permette di mettere tutto sullo stesso piano. I nazisti hanno fatto 6 milioni di morti, sì certo, ma in Texas c'è la pena di morte, è la stessa roba. No, non è la stessa cosa, si fa una gradazione da 1 a 100 e nessuno ha 100% di bontà. Allora, se io faccio 65 o 66 la sufficienza, vuol dire che ho una normale quota di cattiveria, ho una normale quota di ferocia, ho una normale quota di ingiustizia. Le giuste e normali società hanno una normale quota di ingiustizia, una normale quota di ferocia, perché noi discendiamo dalle scimmie, forse, magari dagli angeli della terrestri. Hai ragione, lo sai, perché io sto notando, senza entrare nel tema, perché il tema è passibile di par condicio, che nelle attuali tensioni politiche che stanno animando il nostro paese per le elezioni amministrative c'è questa ricerca dell'aspetto oscuro nel passato della persona. Non c'è possibilità di redenzione, bisogna avere un passato cristallino, nascere senza nemmeno peccato originale per sottoporsi all'attenzione del mondo. Sentiamo qualche ascoltatore. Antonio da Roma, salve. Antonio. Sì, eccomi. Dunque, a me è successo tanti anni fa, insomma una ventina di anni fa, un episodio che mi ha fatto scoprire in realtà quanto io possa essere cattivo. La faccio molto breve. Una mia amica mi invita in una villa nelle campagne di Gubbio, dove c'era un pomeriggio e poi una cena. Zona di follia, comunque può succedere di tutto nelle campagne di Gubbio. Sì, esatto, perché tu dovresti conoscere abbastanza bene. Sei umbro. Comunque, una giornata fantastica, primavera inoltrata, bellissima, bicchieri di vino, fiumi, e quindi si stava bene. E a un certo punto di questa giornata la mia amica comincia a parlarci della fame nel mondo, di quanto noi siamo avidi, di quanto noi non ci preoccupiamo degli altri, rovinando un pochino l'atmosfera che si era creata, che era gaia, insomma, si stava bene. La cosa mi ha indispettito veramente molto. Noi eravamo in macchina insieme, quindi poi siamo tornati insieme, e io l'ho trattata malissimo, perché mi aveva rovinato quel momento di felicità, o comunque stavo bene, e lo trovavo assolutamente ingiusta. E non mi sono mai fermato, fino quasi al punto di neanche salutarla e andarmene. Non c'è cosa peggiore degli amici o delle amiche che ti fanno la morale. Un vero amico ti è complice, non ti fa la morale, non ti indica la via retta. Il vero amico ti è complice e clandestinamente ti appoggia anche nei momenti in cui tu, naturalmente, piacevolmente, per volontà, per scivolata improvvisa, per costrizione, esce dalla via retta. Quindi fa bene a rinnegare quell'amica, e facciamo bene noi a dare la linea all'informazione della borsa. Continueremo tra un istante. 800 24 00 24. Ma quanto ci danno fastidio i buoni? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono contento che tu sia allegra, ragazza, disse il Visconte. Ma perché ridi, se è lecito? Rido perché ho capito quel che fa andare matti tutti i miei compaesani. Cosa? Che voi siete un po' buono e un po' cattivo. Adesso tutto è naturale. E perché? Perché mi sono accorta che siete l'altra metà. Il Visconte che vive nel castello, quello cattivo, è una metà. E voi siete l'altra metà, che si credeva dispersa in guerra, e ora invece è ritornata. Ed è una metà buona. Questo è gentile. Grazie. Oh, è così. Non è per farvi un complimento. Sì, perché poi il vero problema sarà che entrambe le metà vorranno la stessa donna, vorranno sposarsi con la stessa donna, poi si affronteranno in duello per contendersi la stessa donna, si feriranno in maniera talmente cruenta che le due metà sanguinanti che riaprirono l'antica ferita poterono riessere rimesse assieme e tornerà un felice e normale uomo fatto di bene e fatto di male. Stiamo questa mattina parlando del Visconte di Mezzato, di Italo Calvino, che è il secondo dei nostri antenati. Avete sentito la voce di Barbara Alberti, è già preludio, quasi profetica presenza di quello che faremo questa sera alle 21, questi stessi microfoni in cui le donne potranno finalmente dare corpo al loro cavaliere inesistente, colui che dietro quell'armatura amata, vezzeggiata e sognata in realtà non c'è, ma l'uomo che non c'è è il vero uomo che tutte le donne vorrebbero, e questa è un po' la fortuna e la sfortuna di noi uomini concretamente fatti di bene e di male, noi visconti dimezzati riuniti assieme e condannati al nostro misero destino di essere uomini normali. Maria, buongiorno. Buongiorno, senta, allora io insomma è un argomento che sento molto, quello di questa mattina, perché ho avuto la sfortuna, anche la fortuna diciamo, di passare una decina d'anni della mia vita, anche quelli più, diciamo, quelli fondanti, quelli in cui diciamo ci si individua, con una persona che non è che fosse buona, perché poi questo l'ho capito tardi, ma che si rappresentasse come buono, cioè, o meglio si voleva convincersi di essere molto buono, perché derivante da un'educazione familiare in cui diciamo non gli era mai stato permesso di diciamo di tirare fuori la parte cattiva, o meglio la cosa parte che cattiva, non tirava fuori con lei e faccia sentire ma, lei cattiva. La parte cattiva non è che non doveva essere tirata fuori, doveva essere tirata fuori, però doveva essere diciamo socialmente repressa, nel senso che nell'intimità si poteva essere cattivi, però nel sociale questa cosa doveva essere assolutamente Lo spieghi con esempi concreti, se no teorizziamo troppo. Quest'uomo che immagino la facesse sentire cattivissima, lo specchio della sua bontà. La cattiva è cattivissima, questo è il punto fondamentale, cioè che io praticamente diciamo ho passato questi 10 anni espiando dei peccati, un peccato originale, il mio peccato originale. Qual era il suo peccato originale? Il peccato originale era che praticamente potessi essere banalmente diciamo attratta anche da altre cose che non fosse altre persone che non fosse lui, cioè l'accusava di essere di coscia allegra rispetto a questa adamantina castità che l'unione con lui l'avrebbe costretta. A lui lo stesso tipo di amore integralista che io davo a lui. Cioè che lui alla fine è riuscita a mollarlo quest'uomo, a lasciarlo al suo destino. Io sono riuscita a mollarlo e diciamo, parlo di sfortuna, perché voglio dire di fortuna, perché poi c'è stato anche un bambino che è il mio angelo, il mio angioletto. Sono riuscita a mollarlo e sono contenta di averlo mollato e mi creda, quando l'ho mollato poi ha dimostrato tutta la sua efferatezza. Vabbè, quelli sono fatti suoi, l'importante è lei possa essere felicemente cattiva senza un buono che punti il dito contro di lei. Livia, buongiorno. Da Torino. Posto che secondo me la bontà dovrebbe essere un valore, questo ci hanno insegnato. Non è che tutto quello che ci hanno insegnato poi debba essere una legge scritta nella pietra e indissolubile, uno può anche fare esperienza. Però dovrebbe essere un valore che ci fa molto molto comodo. Ma scusi, dov'è questa bontà? Quando noi incontriamo una persona, non parlo di bontà, di gentile, ci poniamo in modo diffidente, oddio, ci vuol fregare, ma io vorrei incontrare delle persone così buone, perché dall'alto della mia cattiveria io vorrei anche approfittare, magari dopo per sentirmi in colpa e non so, farmi carachiri. Ma dov'è questa bontà? Io non mi pongo mai il problema, poi questo ognuno ha la sua esperienza personale, come sia una persona, colgo la piacevolezza dell'attimo senza pormi il problema che dietro ci siano dei momenti o dei calcoli, fatto questo poi può essere buono o cattivo, via dicendo. Lei come si sente alla fine? Agisce da buono o da cattiva? Sente giudicata in alcune sue azioni da questi buoni perenni, oppure tranquillamente se ne frega come giustamente uno fa? No, io se trovo una persona buona, dico la verità che ne approfitto. mi approfitto della sua bontà, e questo mi dà la bontà della persona, come diceva lei prima, dà anche molto fastidio perché ci mette in discussione. Anche perché, scusi, noi cinici e cattivi, quando troviamo un buono, se ci approfittiamo del buono, salviamo la sua anima, facciamo a lui un favore, gli permettiamo di essere martire e vittima di noi cattivi. Silvana De Mari. Allora, io ringrazio moltissimo gli ascoltatori. Il primo ascoltatore ci ha perfettamente rappresentato di come il falso buono sia in realtà un gravissimo aggressivo. E passa il suo tempo a dimostrare agli altri come siano inferiori. Lo spiega benissimo Arthur Koestler in L'Esquillo. Come potete fare un picnic? Lui dice addirittura come potete gozzovigliare con acqua e pane mentre un unico bambino sta morendo in Africa di fame. In questa maniera il bambino non viene soccorso. Si colpevolizzano solamente le persone che si stanno giustamente mangiando il loro panino e soprattutto chi dice queste cose si sente superiore. Uno dei più maledetti piaceri che noi abbiamo nel nostro cranio è quello di sentirsi superiori agli altri. Noi abbiamo avuto queste due tragedie del XX secolo, che non a caso è il secolo del genocidio, dell'essere geneticamente superiore il nazionalsocialismo e dell'essere eticamente superiore il comunismo. Il comunismo preconizza un uomo che non ama la proprietà privata, ma la proprietà privata è il territorio. Io ce l'ho sul sistema rettiliano e sul sistema limbico, cioè sui sistemi più antichi. Quindi tutti siamo colpevoli, non esiste nessuno che non ami il denaro, che non ami la proprietà. È un bel trucco perché tutti siano colpevoli. Vorrei anche parlare del vero buono, infatti il fallimento del socialismo reale è stato proprio che alla fine vedendo i beni del consumismo tutti hanno detto ma cosa ci importa, anche noi vogliamo. Esatto, e Arthur Koestler preconizza nell'Esquillo che il comunismo non riuscirà a distruggere il mondo, contrariamente a Orwell che muore prima ed è convinto che invece vincerà, ma che si trasformerà in buonismo terzomondista. E Pascal Bruckner nei suoi straordinari libri La mistica della penitenza e Singhiozzo dell'uomo bianco capisce come alla base di tutto questo non ci sia l'amore per il terzo mondo ma l'odio di sé. Chi ama veramente il terzo mondo o chi è uno che ama, cioè una persona felice, serena, contenta di essere al mondo, con la capacità di moltiplicare i pani e i pesci, che ce ne sia per lui e per gli altri. Lo schema non è il sacrificio. Hai conosciuti te Silvana? Ma certo, a cominciare da tutti conoscono Albert Schweitzer. Albert Schweitzer è campato felice, non ha mai rotto l'anima a nessuno, è riuscito a suonare l'organo, era felice come una Pasqua. Le persone contente, se sono in fila al supermercato, non cedono il posto agli altri, ma sono serene, sorridono e dopo un po' si rasserenano tutti. È tutto qui. Il vero buono si batte a favore, non contro, non si batte contro la fame, si batte a favore del fatto che tutti abbiano da mangiare, quindi si sceglie un posto, ci va perché gli piace, perché gli sono simpatici quelli che ci sono, perché lì campa lui, campa meglio. Il mio primo compito è essere felice, perché le emozioni sono contagiose. E se sono scontento e arrabbiato, dopo un po' tutti sono contenti e arrabbiati. Lo schema non è il sacrificio, ma la moltiplicazione dei pani e pesci. Livia da Torino, buongiorno. No, Livia Torino ha parlato, Giovanni da Varese. Buongiorno. Eccolo. Salve, io volevo dire una cosa, che un riferimento al Dio, al Dio buono per definizione, che ci ha portato Gesù rispetto a quello degli ebrei, non è un Dio onnipresente che... Guardi, non è che voglio non è che la voglio segare, ma perché adesso parte in assoluto con temi più grossi della nostra meschina e umana capacità? Parli di se stesso, parli della sua esperienza. No, non cerchiamo predicatori questa mattina, cerchiamo persone che parlino della loro esperienza. Se no facciamo un'altra trasmissione, un altro problema. Dio mi guardi dal censurare il suo anelito di proselitismo, però non c'entra nulla in questo momento. Se ha qualcosa da dire della sua esperienza rispetto al fastidioso e esporre la propria bontà per far sentire gli altri meschini, lo dica, se no non ci citi il Vangelo, lo conosciamo tutti. Chi vuole lo segue, chi non ha questa predilezione userà l'etica in altre maniere. Mi scusi, eh? No, no, io comunque la mia riflessione chiudiamo sul discorso della libertà, che bontà equivale anche a libertà e rispetto dell'altra persona, che è la base. Cioè detto in parole sintetiche, il buono può essere buono e siamo felici che lui sia buono e la bontà ci irradia della sua del suo benefico contatto, però purché non ci faccia ogni volta sentire meschini perché non siamo buoni come lui, è questo il senso. Ma anche rispetto e libertà dell'altra persona, non posso io ammanettare un'altra persona perché si comporta diversamente da come io penso che sia giusto, cioè non è un concetto di bontà profondamente sbagliato. Qua è più sottile, chi ammanetta è già cattivo, il buono non ti ammanetta, il buono si pone in mezzo alla strada come esempio e martire delle nequizie dell'umanità e ti dice vedi tu non sei attento a me, non sei attento a queste cose. Silvana De Mari. Non è, ha detto una cosa molto giusta. Io devo avere un'unica legge. Io non sono molto d'accordo sul fatto che il Dio cristiano e il Dio ebraico siano in contrapposizione all'altro, ma qui lasciamo perdere questo momento. Sì. Ma io devo avere un'unica legge. La legge deve essere non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Se ho rispettato la legge, io non posso essere considerata malvagia. Se noi aggiungiamo item alla legge, quindi non uccidere, non rubare, devi salvare tutti, cedi il tuo posto al supermercato, a questo punto io non riuscirò mai ad essere in una posizione etica. Una volta che non ho ucciso o non ho rubato, nessuno può ammanettarmi. Qualcuno deve anche rispettare la mia libertà. C'è una libertà fondamentale dell'individuo e questa è la libertà da cui nascono tutte le altre. Nel momento in cui questa libertà è violata, tutte le altre saltano. È la libertà di andare all'inferno. Nel momento in cui la mia libertà di andare all'inferno è violata, io sono in una teocrazia e la democrazia ce la siamo fatta fuori. Se col mio denaro, indipendentemente dalla mia volontà, viene soccorso il mondo, io non ho più il diritto di andare all'inferno, perché quando mi presento a San Pietro mi dirà: cosa hai fatto di buono? Dirò: niente, non è vero, con le tue tasse è stato soccorso quello, quell'altro. Sono io che devo soccorrere gli altri. Nel momento in cui la bontà mi viene imposta, sono in una teocrazia. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Stiamo riprendendo dal Salone del Libro di Torino a parlare del Visconte di Mezzato. Ricordo ancora che questa sera alle 21 saremo sempre qui con Barbara Alberti a parlare del Cavaliere Inesistente. Sarà una fantastica fanta puntata con Barbara Alberti e con me, in cui soprattutto le signore, ma tutti naturalmente, ma è interessante il punto di vista delle donne, ci racconteranno e cercheranno di dare definizione, anche se pur fantasmatica, del Cavaliere Inesistente, che continuano a cercare, che hanno sempre cercato, e per il fatto stesso che egli è inesistente non riusciranno mai a trovare. Intanto questa mattina sono con Silvana De Mari, che ricordo, scrittrice di fantasy, saggista, medico, anche psicoterapeuta, a parlare del Visconte di Mezzato. Ma mentre la parte cattiva del Visconte di Mezzato la conosciamo tutti, è la parte con cui facciamo i conti ogni giorno e molte volte ci dà anche delle belle soddisfazioni, la parte buona è quella più interessante, perché è quella più indefinibile e più difficilmente additabile come qualcosa di negativo. Il buono è buono in sé, il buono irradia bontà. No, stiamo scoprendo che il buono, quando diventa un esempio, quando ci toglie anche la nostra libertà di conoscere la cattiveria, il buono è qualcosa che va fortemente evitato. Nicola da Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei mi sponda delle certezze che io ho. Il mio mestiere è questo. Se no facevo il prete, scusa. Io sto cercando di essere buono, anche perché in effetti non sono buono. Ma lei non deve cercare, uno è buono quando vede gli altri che ti sorridono attorno, qualunque cosa faccia, anche se ha un frustino in mano, sei buono. No, io ho sempre cercato di comportarmi correttamente, ecco, più che altro. Correttamente nel senso che lei sa bene che siamo in un periodo dove non c'è più, come si può dire, allo Stato non crediamo più, non facciamo niente. Lo diceva niente. Anche Platone, lo dicevano gli assiri babilonesi, lo dicevano gli uomini delle caverne, ogni uomo è sempre insoddisfatto del suo periodo e rincorre un'età dell'oro che sembra tanto lontano. Ma noi siamo messi male come Italia, questo è il problema. Vabbè, adesso, come prima quello voleva parlare per forza di Gesù Cristo, voleva parlare dell'Italia. In questo momento, quello di cui noi stiamo parlando trascende dal luogo fisico in cui noi siamo prodotti e generati. Voglio dire, io sbaglio a cercare di comportarmi bene o certo. E lo chiede al suo padre confessore, che ne so io. Lei deve dirmi soltanto, c'è qualcuno che le pone continuamente degli esempi di rettitudine e che l'annichilisce, che la fa sentire vigliaccamente un verme, se esiste questo, se no non si ponga problemi. Silvana De Mari, tu che sei anche un po'. Credo che bisogna tornare al concetto del voto. La sufficienza è 6, non è 10. Quindi è giusto che noi partiamo dalla sufficienza che è 6. Anche 6 meno può bastare. Anche 6 meno. Io sono appena stata a Yad Vashem, dove ci sono i disegni dei bambini di Terezin, che sono stati uccisi tutti. Adesso vivo in un luogo dove non è più permesso di uccidere un bambino né di usarlo per fare esperimenti atroci e dopo impiccarlo. Quindi sono estremamente felice. Tutto qui. Mi muovo mettendo l'attenzione su quello che ho. Non è la democrazia del Mulino Bianco, è vero, ma noi non siamo nati col contratto. Nessuno ci ha firmato un contratto. Senta, lei ci faccia la cortesia di nascere, in cambio la facciamo vivere nella democrazia del Mulino Bianco, tutto andrà bene. Viviamo in luoghi dove è successo di peggio, adesso non sta più succedendo. Teniamo l'attenzione concentrata su quello che altri uomini hanno fatto. In tutti i casi, in questo momento, in Italia, non abbiamo lager e non abbiamo gulag. Quindi sono già successi dei miracoli, perché i lager li abbiamo avuti e i gulag abbiamo rischiato di averli. Teniamo l'attenzione concentrata su quello che funziona e aumenterà. Il primo compito che noi abbiamo per essere corretti nei confronti dei noi stessi e della vita, cercare di essere ogni giorno i più sereni e più forti possibili. E le cose miglioreranno. Uomini straordinari hanno fatto in maniera che non esista più il vaiolo. Sono andati in giro, hanno vaccinato tutto quello che hanno incontrato sulla loro strada, hanno vaccinato i figli degli amici, i figli dei nemici e i figli di coloro che non conoscevano e ci si sono divertiti. Non esiste più la peste perché qualcuno si è divertito, aveva la passione di scoprire gli antibiotici e sono stati felici e non si sono sacrificati. Viviamo in un mondo straordinario dove la mamma di Cecilia non dovrà più mettere la sua bambina sul carro dei monatti. Noi abbiamo il dovere di essere felici, la nostra felicità costruirà il mondo. Patrizia dalla provincia di Monza. Oh, buongiorno Nicoletti, buongiorno a Silvana e a tutti gli ascoltatori. Io volevo ribattere con Nicoletti quando prima ha detto che un amico deve essere complice. Ma insomma, secondo me un amico deve essere libero, proprio perché è un amico, di poter dire quanto sei STR all'amico piuttosto che quanto sei buono, alla moglie e al marito, la libertà in assoluto. È il mio sei meno meno di bontà. Io voglio amici e amiche che mi compiacciano, se no non so che farmene. Però questo è il mio limite, non so che farmene l'amico che è il grillo parlante accanto. Non è il mio amico, è rompipalle, non lo voglio. Voglio l'amico che mi compiaccia, mi sia complice, scivoli con me fino al profondo del precipizio, se no che amico è? Lui, come si dice a Bologna, le comda avere chi ti dà sempre ragione, E perché deve essere scomoda la vita, mi scusi, che devo scegliere la scomodità, nessuno me lo impone. Voglio la vita comoda, sì, voglio vivere bene, star bene, mangiare bene, se possibile essere ricco, avere tante donne, essere circondato dall'amore e dal consenso, perché lei no. Il mondo, salutando chiunque incontro, sono educata e gentile. Io invece un sacco di gente che la incontro la prenderei a calci nel sedere, guardi, e sarebbe molto liberatorio. Comunque ognuno ha le sue vocazioni. Silvana De Mari. Io credo che uno dei nostri compiti sia far sentire agli altri il meglio che in loro. Però qualche volta può capitare che i nostri amici non siano impeccabili. Sarà dannatamente banale, ma mette insieme più mosche una goccia di miele che un barile di aceto. Come diceva Buddha, e lui non lo sapeva, ma è il fondatore della psicologia costruttivista, forse la psicologia costruttivista che ha copiato da Buddha, o forse si sono formati ognuno per conto suo, ognuno ignorando l'altro, noi siamo quello che pensiamo di essere. E spesso noi siamo quello che gli altri pensano che noi siamo, a meno che non abbiamo una fortissima indipendenza. Quindi, attenzione, se io faccio sentire un altro incapace, c'è il rischio che aumenti il suo livello di incapacità. Con questo non dico che debba sempre andare in giro a dire a tutti, oh ma quanto sei bravo, i nostri professori migliori sono quelli che ci hanno dato 4 e ci hanno dato anche però le maniere per arrivare fino a 9. Ma erano tutt'altro che amici, Silvana. Non erano i nostri amici. Il nostro amico ha il compito di farci sentire il meglio che c'è in noi, perché noi porremo l'attenzione su questo meglio e lo aumenteremo. Nel momento in cui non fa sentire il meglio che me, diventa il professore. Se non l'ho scelto come professore e se non gli riconosco queste doti, potrebbe non essere un vantaggio. Grazie Silvana De Mari, grazie a quanti ci hanno ascoltato e sono presenti qui al Salone del Libro. Ricordate, questa sera alle 21 saremo ancora qua con Barbara Alberti, non mancate. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.